grido nel nostro animo, animo, affondiamo nella noia ormai, e lo sai, e qualcuno dice che i sogni sono guai. Testa i miei limiti, è una sera come tante che mi porta via con un uomo, io rimango lì come chi nel buio dei suoi passi ha solo una bugia. Metti in gioco per un po' tutto quel che sai.